sentirsi in fondo senza difesa, senza via di scampo. Non immaginavo trovarti anche qui, tu che mi dicevi che non credevi in nulla. Vedo che sai leggere, per te sono un libro aperto. Conosci i miei difetti, la mia voglia di riscatto. Con te crollano tutte le mie difese. Con te sono uno specchio, non ho scuse. Sono nudo, schiavo del tuo respiro. Seguo i tuoi binari, sono il tuo treno. Eppure solo tu mi fai stare sereno. Gli unicorni nelle leggende hanno spesso le ali. Io tra mille fiabe preferisco i tuoi seni. Anche se a volte sono tuo prigioniero, ma con te queste catene mi fanno sentire uomo. Per essere davvero liberi bisogna lasciarsi andare, dare tutto senza remore, tutto al proprio amore, come una nave in mare, abbandonare tutto, lasciarsi guidare dal vento, da ogni alba sino al tramonto. E ti scopri allora un naufrago nell'immenso, perdi i sensi, e ti scopri allora libero di volare oltre il mondo. E lontano dalle tue paure scopri nuove terre, ti ritrovi ad abbracciare la tua anima tra le stelle. E ti scopri allora un naufrago nell'immenso, perdi i sensi, e ti scopri allora libero di volare oltre il mondo. E lontano dalle tue paure scopri nuove terre, ti ritrovi ad abbracciare la tua anima tra le stelle, ad abbracciare la tua anima tra le stelle.